apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Una signora, una vecchia zitella, va in questura, si presenta dal commissario, dice: sentite, c'è uno sconcio che deve finire. Tutte le mattine quando io apro la finestra, nella finestra di fronte a me c'è un giovanotto che fa la ginnastica completamente nudo. È uno sconcio che deve finire. Venite e provvedete. Il commissario il giorno dopo si presenta nell'appartamento della zitella, apre la finestra ed effettivamente vede dall'altra parte un giovanotto che fa la ginnastica completamente nudo. Si vedeva soltanto dal torace in su, in quanto che il davanzale impediva di vedere il resto. E allora il commissario dice: ma guardi, quello sarà anche nudo. Ad ogni modo si vede soltanto dal torace in su, è in regola. E sì, dice la zitella, ma provi un po' a salire sull'armadio. Artifici visionari della signora immortalata da Tognazzi negli anni 50 in una barzelletta presa dal suo album personale. Vedete che riprendiamo il tema così caro agli ascoltatori che lambimmo soltanto ieri. Gli artifici per vedere meglio. Anche la signora che sale sull'armadio per vedere le zone innominabili del ginnasta di rimpettaio negli anni 50 in realtà usava un artificio tecnologico, l'arrampicata sull'armadio, per vedere oltre il lecito, oltre ciò che poteva vedere. Oggi troviamo di fronte a una simile necessità, soprattutto da parte di tutti coloro che, non avendo una particolare fisiologica e genetica confidenza con le tecnologie, si trovano a dover affrontare il problema del nuovo televisore. Hanno leggiucchiato, hanno sentito dire che lo switch off è vicino, che il digitale terrestre sostituirà la maniera tradizionale di guardare il televisore. Per loro il televisore è sempre stato un oggetto che accendono e improvvisamente fornisce immaginario a basso costo, medio costo, alto costo a seconda del punto di vista, senza necessità di particolari interventi, se non quelli di orientare un'antennina simulacro appoggiata sopra il televisore nel caso non ci fosse un impianto efficiente, o quello magari di chiamare un tecnico se la sintonia dei canali non permette più di vederli in maniera tranquilla. Beh, oggi è tutt'altra cosa. Oggi bisogna fare una scelta di fronte a una serie di opportunità del tutto esoteriche per chi non conosce minimamente i dettami dell'upgrade tecnologico dei televisori, e quindi la domanda viene fatta a chi si pensa che possa dare risposte. Nicoletti, buongiorno. Volevo chiederle una cosa. Con la prossima TV digitale, diciamo, io ho una presa satellitare, vorrei un comunissimo televisore, bello magari, anche colorato, a me piace più che nero, che va bene in un ufficio. Colorato nel senso dell'involucro, diciamo. Vorrei sapere cosa comprare. Vabbè, decoder incorporato, quello l'ho imparato. E poi lo schermo al plasma o ai cristalli liquidi. Non abbiamo le idee ben chiare. Ci vorrebbe maggiore informazione. Grazie. Sì, ma come posso dare io informazioni su quale televisore acquistare? Lo farei volentieri. Apprendo questa mattina dal valente collega che mi mette in onda qui a Milano che da qualche mese la scelta dovrebbe vertere sul televisore a LED, cosa che io ignoravo quando feci il metafisico acquisto del mio nuovo televisore, di cui feci dirette radiofoniche per un mese circa, raccontando le mie difficoltà tecniche nell'armonizzare tutti i componenti di questo televisore. Ieri vi dissi che ho 7 telecomandi davanti al mio televisore, compreso quello dell'aria condizionata, che attraverso un training esasperante sono riuscito a essere l'unico in famiglia che riesce a comandarlo. Posso dare a lei consigli, signora, su quale televisore acquistare, però vedo che il problema è senz'altro sentito. Quindi ancora oggi vorrei riflettere con voi su quanto l'oggetto televisore, non tanto ciò che ci passa all'interno, com'è diventato indifferente, ormai non esiste più possibilità di reazione, non esiste più una reattività diffusa. A noi va bene qualunque cosa si veda all'interno del televisore. L'importante si riesca a vedere, l'importante è che riesca ad essere facile la visione, l'importante è che non ci si complichi la vita, l'importante è quando noi entriamo in casa e ci mettiamo in contatto con il più loquace dei componenti della nostra famiglia, risponda tranquillamente, serenamente al nostro richiamo e non ci richieda di prendere una laurea in ingegneria per poterlo articolare. Beh, sono molteplici le mutazioni che ha avuto l'oggetto televisore nel corso della sua storia. Ne parlammo ieri, riassumo velocemente, dal televisore monocanale al televisore oracolo, dal ciclope nel salotto di casa nostra che veniva temporaneamente oscurato nel periodo in cui non emetteva trasmissioni, non emetteva programmi, non emetteva immaginario, fino a un televisore lievemente più elaborato con una possibilità binaria di scelta, primo e secondo, al televisore con una serie di canali che lambivano anche realtà locali. La televisione sembrava riprendere il nostro errabondo quotidiano, affaccendarci nei supermercati. Le prime televisioni locali mettevano in dei grandi capannoni massaie che uscivano per fare la spesa e facevano il pubblico diventa il protagonista della televisione, comincia a concretizzarsi la grande profezia oggi finalmente realizzata dalla televisione, che in realtà l'accesso a quel mondo è possibile per tutti. Quali sono i talenti che servono? Quali sono le eccellenze? Nessuna. Esistere nel mondo degli uomini per poter esistere nel mondo degli uomini della televisione. Detto questo, nella puntata di ieri ci fu anche una meravigliosa anticipazione di quella che fu la Pay TV negli anni 50. Nessuno immaginava, nessuno ricordava e nessuno ha ricordato nella maniera giusta che quello che oggi consideriamo una delle frontiere più fruibili dalla contemporaneità della televisione, che appunto la televisione a pagamento, la televisione con un decoder che permette la visione di alcuni canali a fronte di un pagamento che è centellinata a seconda del nostro desiderio di vedere. Un film costa tanto, due film costano tanto, un film zozzo costa tanto di più perché devi anche pagare il fatto che hai una doppia azione, che oltre alla visione vengono appagati anche, seppur in maniera autoctona, alcuni tuoi sensi. Beh, detto questo, un nostro ascoltatore ricordava un marchingegno di cui avevo qualche vaghissima memoria, legata soltanto a frequentazioni in bar e luoghi pubblici, il televisore a gettone. Dice: a casa mia c'era un televisore che si metteva la monetina per guardare. Ci sembrava impossibile, abbiamo lanciato ai nostri ascoltatori la domanda, ve lo ricordate, il televisore a gettone? Queste sono state le risposte. In merito alla televisione a gettoni, mi risulta anche a me che a Napoli c'era questo sistema. La televisione veniva usata anche nei locali pubblici alcune volte per usufruire della possibilità di guardare la televisione. Anch'io conoscevo una persona che negli anni 60 aveva un televisore a gettoni. Sì, è vero, esistevano, li ho visti anch'io. Era l'equivalente del frigorifero con lucchetto. Io ho appena sentito la questione della televisione a gettoni, anche degli amici dei miei genitori, una trentina d'anni fa, forse qualcosa di più, a Milano, avevano una televisione che andava a 100 lire. Ecco, abbiamo riscoperto nella storia della televisione, che sembrava ormai scritta, trascritta, riscritta, reiterata, la televisione vive del suo digerito, una parte preponderante della televisione, soprattutto d'estate, fatta riproponendo il repertorio della televisione. La televisione, secondo una mia lettura che feci qualche anno fa, ma che trovo ribadita dai sensi dell'attualità, ormai potrebbe continuare a prodursi senza necessariamente avere esseri umani che pensino ai suoi palinsesti. Semplicemente riproponendo il digerito del suo grande archivio, ma anche semplicemente riproducendo coloro che la guardano. Ma già lo fa, già la televisione del reality è una televisione che immobilizza il pubblico nelle sue azioni, nelle sue funzioni quotidiane. La televisione, nella sua frastagliata, divertente, reiterata storia, aveva una zona d'ombra, quella della televisione a gettone. Dice il nostro ascoltatore con grande acume, corrisponde al frigorifero con il lucchetto. Esisteva un periodo felice in cui il nostro paese sembrava protratto e teso verso il più radioso e felice dei futuri, in cui l'economia sembrava favorire la felicità, in cui il consumo rappresentava la più gioiosa, la più incentivata delle attività, in cui i primi elettrodomestici, i primi supporti ad alleviare la fatica quotidiana della casalinga, venivano vissuti in casa come quasi però un peccato di gola. È notorio, anche perché oggetto di farze, di film, quanto l'uso del pagamento a rata attraverso le cambiali, attraverso gli impegni, attraverso i pagherò, appunto, di questi oggetti di lusso e di lussura allo stesso tempo fosse comune, fosse oggetto di facezia. Quando entravano in casa, naturalmente, erano dei sancta sanctorum che suggellavano il beneficio, l'opulenza raggiunta, ma allo stesso tempo erano sottoposti a quella sorta di parsimonia quasi censoria che derivava appunto alle generazioni che avevano fatto la guerra, che avevano conosciuto il rigore dell'educazione al saper risparmiare, al considerare sempre che quello che hai oggi non potresti averci domani, quindi devi farne un uso corretto e parsimonioso. Quindi le mamme mettevano il lucchetto al frigorifero. Il frigorifero col lucchetto oggi vi sembra un paradosso, dice: ma se ho sete, ho fame, devo aprirlo, come faccio? No, bisognava chiedere la chiave alla padrona di casa, che lei centellinava ciò che il frigorifero conteneva, perché era sempre qualcosa che strappava alla catena del logorio del tempo alcuni prodotti. E quindi questa operazione che andava contro la natura di questi prodotti andava salvaguardata, cioè una sorta di sacerdotessa del frigorifero. E la stessa cosa probabilmente accadeva con il televisore. Il televisore a gettone era l'immaginario a pagamento. Esci dalla realtà, ti abbandoni a qualcosa che in realtà potrebbe essere pericoloso e quindi devi pagare. Oppure c'era anche un'altra maniera. Da bambino, sono del 58, ci si ruppe la televisione a casa, e questa cosa mastodontico, no? E sembrava proprio il trasporto, no? di una specie di monumento. Se lo vengono a prendere, lo portano via chissà quanti giorni. Nel frattempo questi del servizio tecnico, non so chi, ci schiaffò in casa questo televisore che andava a gettoni, per cui noi quella settimana, quei 20 giorni, perché poi una volta queste riparazioni, no, erano un po' da NASA, stavano via delle settimane gli apparecchi, e per tutto questo periodo noi avevamo in casa questo televisore, si metteva dentro la moneta e si poteva accendere e guardare. Quando ero piccolo anch'io lo avevo a casa, quindi posso dare una testimonianza su questo, ma non era un fatto di risparmio quanto un discorso di mancanza di soldi nelle famiglie. Ecco quindi che aggiungiamo a un particolare che sembrava trascurabile alcuni elementi che ci danno una lettura trasversale dell'antropologia della popolazione teleutente di quei tempi. Allora, il televisore spesso si guastava, il televisore a valvole, il televisore con una tecnologia tendente al surriscaldamento, non ancora perfezionata, con dei componenti che non avevano avuto il necessario collaudo, o il televisore usato spesso da mani inesperte, non si faceva scaldare sufficientemente quella sorta di scatoletta pretelevisiva che permetteva, adesso non so esattamente come si chiama, c'era una cassettina di ferro con un bottoncino che si accendeva e lentamente un pallino verde si espandeva finché si vedeva l'immagine televisiva. Bisogna fare dei lavori di sintonizzazione quotidiana di quell'immagine, finalmente si vedeva, finalmente si era nel grande spettacolo del bianco e nero. Beh, quando si guastava al televisore c'era una forzata astinenza di tutta la famiglia, ma anche del circolo della socializzazione intorno a quel televisore, perché il televisore di una famiglia molte volte era il televisore di tante famiglie, di tanti amici. Il vero evento era andare a vedere la televisione a casa di chi la possedesse. Beh, una sorta di quaresima forzata, come si faceva a stare senza televisore? Guardate che allora, anche se si trasmetteva soltanto alcune ore al giorno, quelle ore davano senso a tutta la giornata. Era l'impressione di avercela fatta, di avere ciò che occorreva, per cui occorreva un investimento in tempo e denaro, quindi uscire, andare al cinema, uscire, andare a teatro, uscire a vedere gente, improvvisamente ce l'avevi dentro casa. Era un miracolo che non aveva precedenti. Quando il televisore era rotto, arrivava il signore spesso con una gabanella scura e lo portava via. Era come una sentenza di morte, era come un medico che scrolla il capo di fronte a un caso irrecuperabile. E quei giorni legavano la famiglia all'angoscia, quindi c'era una possibilità di recupero. Colui che ti portava via il televisore per ripararlo te ne lasciava un altro che potevi usare, ma lo usavi naturalmente a pagamento, una sorta di noleggio. C'era la scatoletta con l'apposita gettoniera per poterlo vedere pagando, quindi il televisore veniva dato in cambio, era un televisore a pagamento, quindi si lasciava la propria televisione con rammarico e malincuore e si prendeva la televisore a pagamento. La televisione non è che usava le 100 lire, è che si comprava il televisore per poter pagare la rata a fine mese, si mettevano le 100 lire e le 100 lire durava un'ora di programma. Quando ero bambino, ho più di 50 anni, i miei avevano la televisione a gettoni e praticamente l'avevano installata per, alla fine, pagare la televisione, ecco, questo era il motivo per cui c'era questa televisione a gettoni almeno in casa nostra. Gli installatori o chi ti vendeva, non essendoci le rate all'epoca e non avendo i soldi forse per comprarla qualcuno, si faceva mettere una cassettina dietro nella quale si andava a tempo. Una volta finita di pagare la televisione veniva tolta la cassettina e la televisione si vedeva sempre. Quando avevo l'età di 10 anni mio padre comprò un televisore a gettone, ma non perché era tirchio. Era per il fatto che la rata mensile si pagava con i gettoni, cioè mettendo 100 lire al giorno, a fine mese uno avrebbe potuto avere quelle 3.000 lire per pagare la rata. Ma noi i primi tempi mettemmo 600 lire al giorno, dopodiché non c'erano neanche le 100 lire da metterci e il televisore se lo riportarono via. Ecco quindi che, scavando ulteriormente, troviamo nuovi sensi per il televisore a gettone, di cui nessuno mi ricordo o mi risulta abbia mai parlato in maniera così approfondita. Erano gli anni in cui ogni anno c'era la festa del risparmio a scuola e i bambini venivano regalati dei quadernetti e delle penne in cui doveva fare il temino per il risparmio. Si vinceva, il bambino faceva il temino più terrificante, in cui diceva che rinunciava al gelato, rinunciava ai giornalini, rinunciava a ogni piccola gioia, veniva regalato un salvadanaio con dentro 1.000 lire o qualcosa del genere. Era un concorso che interessava tutte le scuole d'Italia. Mi ricordo il mortificatorio libretto che accompagnava questo temino. C'era una serie di figure che segnava i luoghi da evitare per essere piccoli risparmiatori. Quindi di fronte all'edicola dei giornali c'era una grande croce, quasi un teschio, perché non bisognava andare a comprare giornalini. Di fronte al gelataio lo stesso, di fronte al cinema lo stesso, cioè tutte le cose che davano senso alla vita, davano gioia, davano strumenti di ricezione e percezione del mondo, venivano bloccate, censurate in nome di mettere il soldino dentro il porcellino di terracotta per essere dei piccoli risparmiatori. Però era lo spirito del tempo. La stessa cosa funzionava per il televisore. L'oggetto della massima lussuria familiare era dotato di una fessura da salvadanaio che permetteva di alimentarlo, nel senso di pagarlo. Chi non poteva fare i cambiali, chi non aveva credito per poter nemmeno prenderlo a rate, lo pagava un po' per volta mettendo le 100 lire ogni volta che lo guardava, quindi senza accorgersene, facendo un fioretto quotidiano per ogni trasgressione dalla regola che lo voleva legato a un rigore di vita senza nessuna uscita da quella vita, pagava così il suo televisore. Gianni, buongiorno. Sono io, Gianni? Sì, Gianni da Milano. Dai, Nicoletti. Eccomi io qua. L'ho vista l'altro giorno quando era al museo. Non racconti il mio intimo passato. Ogni tanto sì, vado al museo a staccare i biglietti per mantenere la famiglia, lo so, però non lo dica. Senta, no, mi ha incuriosito molto. Al museo fra un po' ci andrò veramente, data l'età che... No, prima ci vado io che ho 66 anni. Vabbè. E grazie a questo, appunto, dato che di un po' di televisori... Poi era il museo preistorico, una cosa... Ho tentato questo intervento. Allora, sì. Io, guardi, aneddoti, nel 1956, io vivevo a Bolzano perché è da là che sono venuto a Milano come gli attuali immigrati a cercare lavoro, e non c'era ancora la televisione in Alto Adige, non si vedeva, e un commerciante, ovviamente un po' furbo, cosa ha fatto? Ha installato una enorme antenna su un passo per prendere il segnale dalla Lombardia. E mi ricordo che siamo andati a vedere Germania-Ungheria, campionati di calcio con la Germania dopata, a vedere questa partita. Ne avremmo visto un 20%, perché... Comunque era un vero atto di pirateria ante litteram, meraviglioso. Esatto, bravissimo. Lei è fantastico nel cogliere queste... No, però non era percepita come tale. Non avete l'impressione di rubare qualcosa? No, assolutamente anche, perché no, non era un bene comune. No, assolutamente no, anche perché... Noi come spettatori, voglio dire, fruivamo di un servizio e il pirata era chi aveva installato tutto quel marchingegno, non noi. Vabbè, morale. Uno potrebbe dire, allora, non credo che la stessa cosa valga dire Emule non l'ho fatto io l'uso soltanto, è la stessa cosa. No, certo, assolutamente, guardi, io tra l'altro... Anche fabbricanti di piedi di porco di Grimaldelli, no, in realtà non possono essere responsabili. Ho una connessione ad altissima velocità, cavo in fibra ottica, non ho mai scaricato nulla di illegale. C'è gente che è ancora fatta così, io odio queste cose. Si attento, può essere qualcuno che lo faccia sul suo computer senza che lei se ne accorga. No, le garantisco che avendo la bellezza di 47 anni di esperienza informatica, sul mio computer non ci viene nessuno e non lo tocca nessuno e non ci può entrare. Beh, nessuno. Si può fare anche senza toccarlo. No, ma appunto, ma non ci entra nessuno, le garantisco. Va bene, andiamo avanti. Quindi... Andiamo avanti. Allora, da un punto di vista sociale, la TV si guardava al bar. Sì, chi non l'aveva a casa la guardava. Era un fatto sociale. Si dovevano prenotare i posti per vedere un programma al bar, lascia la doppia, non ne parliamo. Ecco. Sì, questo è, diciamo, è il momento più alto delle nostalgie televisive, ma è chiaro. Il momento più alto delle nostalgie televisive perché era socializzante. Oggi nei bar ci sono anche le slot machine, che una volta soltanto quando uno andava al casinò le poteva incrociare. Infatti, sono un estremo pericolo e a questo punto non capisco perché non si possono fare i casinò in Italia per poi andare a spendere e rovinarsi. Lei pensi che è il gioco più usato in Italia, seguito dal Grattavinci, seguito dal Lotto, e sappia che, ahimè, in questi giorni si celebra la messa in pensione del bambino bendato che pigliava le palline del Lotto. Scomparirà definitivamente da settembre perché ci saranno delle macchine automatiche. Vabbè, e quel fanciullino dalla mano innocente... colpisce tutti, indistintamente tutti. Non lo vedremo mai più. Vabbè, ma questo sarebbe un discorso ci può... Melog 2.0. Ci sono stati dei cambiamenti che oggi vi mostreremo. Anzi, vi dirò che siccome siamo a colori, io desidero mostrarvelo a colori questo nostro studio completamente rinnovato. Amici ascoltatori, allegria! Amici ascoltatori della Svizzera italiana, permettetemi di esordire con quello che è stato per tanti anni il mio fatidico motto. E devo dirvi che sono veramente allegro perché per me questa sera inizia una nuova carriera, proprio così. Benché io abbia detto già tante volte che festeggio i 20 anni della mia carriera televisiva, oggi mi sento un po' come un bambino perché è la prima volta che io mi cimento col colore, con una cosa così importante per me. Sembrava qualcosa di fuori da ogni regola, mi pare, cito a memoria, che l'occasione per la tua colori fu in Italia quella dei Giochi Olimpici di Monaco del 72. Mi ricordo la lunga diatriba su quale fosse il sistema migliore, il sistema PAL, il sistema SECAM, e le prove della televisione a colori che noi guardavamo in bianco e nero, in cui si immaginava meraviglie, cornucopie di fiori, di frutta, con signore con musichette in sottofondo che mettono sempre questi fiori nei vasi. E se ci capitava vederle a colori nei negozi di televisori, vediamo qualcosa che apparteneva al sogno, non alla realtà. Ma la velocissima modernizzazione, adeguamento del televisore alle esigenze di sogni sempre più completi, sempre più vividi, sempre più realistici, a un certo punto si è fermata. Perché a un certo punto la televisione ha cominciato ad essere concentrata sull'aggiornamento del suo hardware, cioè dell'oggetto televisore, sempre più meravigliosamente presente nelle case, sempre più grande. Il televisore diventa immenso, il televisore diventa qualcosa che occupa una parete, il televisore ha un suono invasivo, un suono che arriva da ogni parte, il televisore legato a un home theater permette di vedere e di sentire ovunque, quindi diventa avvolgente. Però per vedere e sentire cosa? Per vedere e sentire i film, non più i programmi da televisione, che in realtà hanno una caduta libera nella direzione della sciatteria. La televisione smette di sperimentare, la televisione smette di trovare nuove maniere, nuovi linguaggi. La televisione si impoverisce nel contenuto, cala il suo immaginario e comincia a riprendere a tempo reale coloro che la guardano. La televisione si alimenta della vita, del quotidiano di chi la guarda. La televisione in realtà tradisce la sua vocazione. Non è più uno strumento che secerne e fornisce immaginario, ma semplicemente una grande telecamera aperta sulla vita di chi guarda. Però ne mantiene un'altra, mantiene quella di dare gloria e dare resistenza a coloro che la seguono. Mi ero interrotto con Gianni da Milano, pioniere della telepirateria, concludo con lui. Gianni, ancora in linea? Sì, sono ancora in linea, ho apprezzato moltissimo quello che lei ha appena detto, infatti il cambiamento proprio che lei ha appena illustrato, adesso il televisore non sarà più un televisore, sarà un monitor, il futuro è questo. Ma i nuovi televisori in realtà fungono anche da monitor. No, ma non in quel senso lì, sarà proprio un monitor, cioè perderà il decoder interno, perderà tutti i meccanismi che consentono, gli rimarrà soltanto la capacità di emettere immagini e gestire i suoni legati alle immagini, tutto il resto sarà esterno. Si chiama tecnologia wireless, con una sigla che non vi sto a dire perché tanto è, ma è questo il futuro e renderà finalmente possibile usare televisori come piacerà a chi li comprerà, anche se ha dei mobili fatti nel 1960, perché voglio dire, dove lo metti in un mobile se non rifà la casa un televisore delle dimensioni che ci sono adesso? Beh, lo attacca a una parete praticamente. Appunto, ma se non fosse un monitor puro, alla parete ci deve poi attaccare il decoder, il videoregistratore, e cosa fa? Infatti io mi ricordo, guardi, quando io iniziai a fare questo lavoro di osservatore della televisione, raccontatore radiofonico, la prima botta vita che mi feci, ma si parla di 15 anni fa, abbondanti, di comprarmi un grande televisore, perché avevo un televisorino a casa schifoso, e mi presi il primo 16 noni che c'era allora sul mercato, che ci volevano 3 operai per portarmelo dentro casa, esatto. E mi occupava mezza casa. Era meraviglioso, bellissimo, ho voluto bene a quel televisore, ho passato con lui gli anni più belli della mia vita, però era veramente un mammozzone che occupava mezza casa. Oggi il televisore sta seguendo la vocazione di ogni hardware di immaginario, che la radio ha già superato a tempo. No, soprattutto cerca di quintessenza alla propria componente materiale. Io penso che alla fine si arriverà che la videoproiezione sarà probabilmente la maniera migliore per vedere la televisione, il televisore che non esiste e appare nel momento in cui lo vedo proiettato da qualche parte. Io, questa è una mia profezia, non dico che sarà necessariamente così. Se la definizione e la luminosità arrivassero all'altezza di uno schermo, sono d'accordo con lei. Credo che sia un po' difficile, però la tecnologia... Io non porrei limiti infatti alla tecnologia. Sorpresi a tal punto che, voglio dire, non ci sono limiti. Abbiamo Luca da Biella. Luca, buongiorno. Buongiorno. Lei è testimone di un televisore a gettoni. Complimenti prima con la trasmissione. Io le racconterò brevemente un'istoria. Io sono medico, sono qua dal 90, sono ritornato a Buenos Aires un par di mesi fa e stavo aspettando la sala d'attesa di un pullman di lunga distanza e quando arrivo lì vedo sedi lì e vedo barra con una scherma sopra e vedo che mette moneta lì. Che cos'è questo? Era un TV a monetina, a gettoni. Quindi lei l'ha visto a Buenos Aires quanto tempo fa? Agosto dell'anno scorso. Ah, quindi diciamo che in Argentina ancora sono in uso i televisori a gettoni. No, non sono solo in uso, sono una cosa moderna. Ossia, la sala d'attesa della terminale di Pullman di Buenos Aires, lei ci arriva lì, danno sedile, una barra, un schermo, e lei può, si mette moneta. E cosa si vede? I programmi normali? Programma normale della TV argentina. No, perché io mi viene in mente che anche questa sera, ieri sera che stavo in albergo, osservo una cosa che a me fa molto sorridere. Nelle stanze di albergo oggi c'è la Pay TV in tutti gli alberghi e c'è un piacevole dépliant che illustra le varie offerte e naturalmente la prima e la più gettonata è quella dei film zozzi. Si immagina che molte volte la gente viaggia, sta da solo o in compagnia e trova questa uscita dalla piccola regola del vivere quotidiano di guardarsi il filmino zozzo in albergo e quello si paga. Però viene specificato perché naturalmente molti viaggiano per conto della propria azienda e quindi sarebbe imbarazzante vedere nel conto che si presenta nella lista spese ho visto le notti bollenti di una porno ninfomane. Qui c'è scritto, ma scritto grosso, in tutti gli alberghi d'Italia l'ho visto, nella fattura sarà soltanto specificato uso della Pay TV senza specificare il canale che avete visto. E questo... anche Sky lo fa lo stesso, eh? sì c'è scritto nel che diciamo è un uso film, ma non dice che film. Beh, un uso promiscuo perché si sa che poi lì si va a parare, ma c'è questa grande ipocrisia di far finta che in realtà i canali che più tirano, ma in tutti i sensi, che più trainano l'ascolto, diciamo, della Pay TV sono quelli a luci rosse, come se ancora ci fosse bisogno così esasperato di acquisire pornografia quando se ne trova gratuita quanta una ne vuole. Grazie Mario, passiamo a Umberto. Umberto, buongiorno. Buongiorno. Da Pescara. Esatto, volevo soltanto raccontare che io sono molto grato alle televisioni a valvole, sono quelle che hanno cambiato la mia vita probabilmente, se non ci fossero state non sarebbe stata quella che poi, grazie a Dio, è stata, semplicemente perché facevo la terza media e chiesi a mio padre, nonostante fossi promosso, di poter andare a lavorare d'estate per tirar su qualche soldo. E mio padre aveva un amico che riparava le televisioni e le radio. Allora quell'estate andai da lui e cominciai con la pratica, senza nessuna teoria, a riparare delle televisioni. La valvola era un componente che si usura, cioè con il tempo, con l'uso, poi non funziona più. Sì, mi ricordo, le valvole andavano ricomprate, ma mi ricordo anche che in realtà i televisori di quel tempo c'erano dei teschi disegnati dietro, che pare che ci passasse corrente a notevole tensione, quindi una delle prime cose che spiegavano ai bambini che mai bisognava mettere le mani oltre quella barriera di faesite, cioè di finto compensato che chiudeva con dei gancetti la parte misteriosa del televisore, quella che scaldava. Verissimo, perché il tubo catodico, tutti prima degli LCD, praticamente tutti quelli che hanno il tubo catodico, c'era l'alta tensione per deviare il pennello elettronico che disegna l'immagine. Quindi è una sorta di sedia elettrica pericolosissima. È una cosa esatta, ma quello che è incredibile... Cioè è il bambino allora... ci rimaneva appiccicato se metteva la manina dentro. Certo. Però allora i modelli di televisione, i costruttori, erano pochissimi, punto uno. Punto due, i componenti che utilizzavano erano sempre gli stessi. Le valvole le facevano pochissime grandi fabbriche. Allora io avevo imparato, lavorando in questo laboratorio in 2 anni d'estate, che a un certo sintomo corrispondeva il guasto di una certa valvola. Allora mi ero fatto una matrice dove dicevo modello, difetto, modello del televisore e difetto. Allora, quasi fosse un organismo vivente il televisore. Mi fa male la milza e quindi... Bravissimo, perfetto. Allora quando una signora chiamava e diceva non mi va il televisore, la domanda che io facevo è che modello ha? E una volta che mi diceva che modello aveva, le dicevo qual è il difetto? Allora mi diceva, che so, fa le righe orizzontali, il quadro gira, oppure fa la nebbiolina, fa la neve. Allora io sapevo esattamente qual era il difetto. Che tipo di valvola era e mandava alla ricerca? Partivo da casa con un cacciavite e una valvola in tasca ed il motorino. Andavo a casa, riparavo il televisore, in quell'occasione davo anche una bella aspirata alla polvere che c'era dentro, pulivo lo specchio e il monitor e venivo pagato. E la signora nel frattempo? La signora era entusiasta, voleva solo me, e quello che è incredibile è che quando ho finito le scuole medie, sono andato a fare poi le scuole industriali, la seconda industriale, pensi un po', andavo a scuola con un Giulia Spider di seconda mano, che si era guadagnato cambiando con i miei soldi, cambiando valvole a signore entusiaste. Grazie. Bene, grazie. Mario da Bari, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ecco, lei giustamente spiega e dà i giusti nomi alle cose. Io ho parlato di questa scatoletta, non mi ricordavo il nome esatto. Ci spieghi esattamente cos'era per chi non l'ha mai vista e non sa cosa fosse. Ecco, si chiamava appunto stabilizzatore. Era una scatoletta, mi ha preceduto il tecnico prima, era una scatoletta che serviva per dare una tensione costante alla TV, visto che appunto sopportava tensioni molto alte, aveva bisogno di una corrente costante. E quindi all'interno c'era un grosso trasformatore e questa scatola era poi riempita di catrame per appesantirla. Infatti era pesantissima. Col tempo poi qualcuno è diventato più furbo e di queste scatolette se ne vedevano sempre di più, e magari era semplicemente un cavo che entrava e usciva e magari era solo riempito di catrame. Però era uno dei primi componenti che potevano deteriorarsi. Lo stabilizzatore era delicatissimo, c'era questa lucina verde che si accendeva, bisognava aspettare che si scaldasse. Però a volte scaldava talmente tanto che dicevano le nonne spegniamo un attimo, facciamola riposare, come perché se fosse... consumava anche moltissimo, perché ripeto, la televisione a quel tempo aveva bisogno di una tensione costante. Io il primo TV che ho avuto in casa, bambino naturalmente, era un Transcontinental che aveva bisogno appunto dei tempi fatidici per illuminarsi tutto da quel puntino verde. Ecco, un'altra cosa che dobbiamo dire, erano delle stufette televisori a quel tempo, emanavano un caldo terrificante, d'estate era una sorta di sauna star davanti al televisore. Sì, ma era il tubo catodico in ogni caso, e poi tutte le valvole. A proposito delle valvole, come diceva giustamente chi mi ha preceduto, c'è gente che all'epoca si marciava già con le valvole e quindi i buoni tecnici a volte cambiavano una valvola a posto di un'altra e poi magari se dopo una settimana quella valvola partiva, signora, e un'altra, tanto difficilmente chi era lì riusciva a capire la valvola che si cambiava in quel momento. Sì, lo svalvolamento mi ricordo che era in effetti uno dei più temibili iatture che potessero accadere in una famiglia. Si tornava a casa la sera, faccia la funerale, si è bruciata una valvola e naturalmente bisogna aspettare il tecnico e tutte gli annessi connessi. Io la saluto e volevo mandare un'ultima testimonianza toccante e pregnante sul famoso televisore a gettone, visto che è stata la nostra scoperta di questa mattina. Fabrizio Intonti ha trovato e individuato un testimone oculare ulteriore sul televisore a gettoni. Intorno alla seconda metà degli anni 50 ricordo che a Milano operava un'azienda che si chiamava Telerent e aveva l'obiettivo di installare presso le famiglie o presso i locali pubblici un apparecchio televisivo da 17 pollici che dietro aveva una sorta di gettoniera. La gettoniera funzionava con le monete a 100 lire e con 100 lire si poteva vedere la televisione per un'ora. Nei bar invece 100 lire erano limitate a non più di 10 o 15 minuti. Fu un esperimento secondo me interessante, nel senso che una famiglia di miei amici, parlo degli anni intorno al 56-57, aveva questa macchina che catturava l'attenzione di tutti noi, era i tempi di lasciare a doppia e di cose di questo genere, e tutti lì, no, l'intero palazzo, radunarci in questa casa per vedere la televisione a pagamento. Siccome mi piace stabilire le ricorrenze di sensazioni attraverso l'adeguamento alla tecnologia nei tempi, io la stessa sensazione che potrebbe aver avuto questo signore quando a metà di lascio raddoppio, nel momento fatidico, scadono l'ora delle 100 lire, quindi di rimetterci là dentro, l'ho avuta questa notte in albergo, dovevo mandare con urgenza un pezzo al mio giornale, non avevo possibilità migliore che chiedere una connessione all'albergo. In Italia, uno dei pochi paesi al mondo, la connessione internet si paga, è a pagamento, anche costa anche piuttosto cara, e anche a tempo. Quindi dice, prende le 24 ore, ma di guardi, sono le 9 di sera, il tempo di scrivere e mandare un pezzo mi basta un'ora. Beh, gli diamo un'ora. Comincio a scrivere, a metà del mio lavoro naturalmente scade l'ora e io mi trovo veramente nelle condizioni, poi ho rimediato attaccandola al mio cellulare, era molto più lenta, almeno era tempo illimitato. Ecco, oggi, visto che il computer e la rete rappresentano un vettore dell'immaginario paragonabile a quello che allora era il televisore, quando c'è qualcuno ti offre un pagamento di connessione a tempo, temporizzata, è questa sensazione, dove rimettere dentro il soldino per continuare a vedere nella macchinetta lo spettacolino. C'erano un certo numero di embedded nel caseggiato, evidentemente, no? Perché era questo ragazzo molto entusiasta che si era portato in casa il televisore, però lui aveva avuto l'idea, voleva vedere la televisione e voleva che gli altri ci mettessero le 100 lire. Allora, quando c'era da mettere le 100 lire, c'era questa sorta di spettacolino, no? Dove c'erano quelli che avevano solo i 50, dove c'erano quelli che avevano le monetine più piccole o quelli che avevano i soldi di carta. E allora lì si rischiava di perdere un pezzo di trasmissione con la gente che sbuffava e poi qualcuno infine cacciava le 100 lire e il programma continuava. Era una cosa che, vista col senno del poi, veramente una storia di costume. Sì, immagino sarà stato come quelli che non hanno mai le sigarette, che non le sigarette agli altri, non ho la moneta, non ho spiccio, quelli che ci marciavano, quelli che pur di continuare lo spettacolo chiudevano un occhio sul fatto che la contribuzione per la collettiva uscita dalla realtà non era parimenti distribuita tra i presenti. Mi sono trovato anni dopo con una di queste gettoniere proprio attaccata a una televisione e l'ho smontata ed era né più né meno che una cosa che avviava un modestissimo contatore che alla fine staccava brutalmente i contatti, per cui era tranciante, potevi spegnere la televisione e tenerti il residuo delle 100 lire per il giorno dopo. Era una scatola con una chiave, sostanzialmente la chiave ce l'aveva solo l'omino che ogni settimana faceva il giro e raccattava i soldi, perché nel contratto in pratica c'era un minimo settimanale di noleggio. Se non raggiungevi quel minimo di noleggio dovevi pagarlo ugualmente. Per cui l'altro aspetto curioso era che il mio amico teneva la contabilità di quanti soldi entravano lì dentro per vedere di non superare di tanto il costo settimanale del noleggio, ma di non essere sotto, perché sennò rischiavi comunque di dover pagare senza vedere. La cosa meravigliosa rispetto a questa poetica dell'epoca di fruizione a pagamento scaglionata nel tempo del programma televisivo è che allora non esistevano gli hackers della cassetta a gettone televisione, che era così facilmente craccabile, bastava intervenire su questo rozzo segnatempo e si aveva avuto una fruizione illimitata. Ma tutti avranno pensato, quando viene l'omino del giovedì a guardare le monetine, sarebbe accorto senz'altro che a scrocco avrebbero usufruito di quei meravigliosi programmi in bianco e nero che oggi naturalmente non costano nulla. A domani. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.